Frankovic, Peter. Sì, allora dirò che la massoneria nelle sue origini è qualcosa di completamente diverso da quello che pensava Weishaupt e da quello che era l'ordine degli Illuminati. La massoneria nasce in Inghilterra agli inizi del secolo XVIII con uno scopo ben preciso, secondo me, cioè quello di porre fine alla guerra politica e alla guerra religiosa, e di creare una comunità di uomini di provenienza diversa, ma con la stessa fede nella libertà e nella tolleranza. Nelle logge massoniche iniziali si trovano insieme calvinisti, anglicani, cattolici. Ecco, questo era lo scopo della massoneria. Allora, tolleranza religiosa al di sopra dei conflitti che esistono nello Stato e filantropia, aiutare gli uomini, a migliorare se stessi. Naturalmente poi l'aiuto reciproco fra i fratelli. In questo senso, questa prima massoneria inglese ha avuto un compito, secondo me, importante. È nelle logge che nasce la democrazia, è nelle logge che tutti quanti sono uguali, sia l'aristocratico che il commerciante, è nelle logge che c'è la prassi di come ci si comporta, il venerabile dà la parola ai vari fratelli, i fratelli la chiedono, si passa alle votazioni e si decide. Questo è già una scuola di democrazia, la prima scuola di democrazia, direi, che esiste in Europa in quel tempo. Le cariche sono elettive e sono pro tempore, limitate. Ogni anno, ogni due anni, si eleggono i vari capi. Dunque questa è la massoneria originale. Quando questa massoneria si trasferisce sul continente, diventa tutt'altra cosa. Si nascono gli alti gradi e in questi alti gradi naturalmente navigano a loro agio gli avventurieri come Cagliostro o Casanova. Gli alti gradi nascondono teorie teosofiche, nascondono alchimie ed altre cose di questo genere. Questa massoneria è una società che vive solo in tempi di pace. In tempi di lotta la massoneria scompare, e lo abbiamo visto anche sotto il fascismo. Sotto il fascismo la società segreta ci è toccata farcela da noi, i massoni sono venuti dopo con le loro insegne e via di seguito. Quindi è una società che vive solo nel momento di pace e di tranquillità e può diffondere così le proprie idee e anche può fare i propri affari. Questo lo vediamo chiaramente quando scoppia la Rivoluzione francese. Non è vero affatto che la Rivoluzione francese sia frutto di un complotto massonico. Queste sono le tesi di Barouel. E il capo della massoneria francese, Filippo Egalité, viene ghigliottinato. Il suo vice, che era poi il comandante effettivo, è il primo a scappare all'estero. Quindi c'è una parte di massoni, come sempre, aderiscano alla Rivoluzione. Una gran parte è nell'emigrazione politica e sconta la sua vita, la propria origine sociale, il proprio carattere sociale. Quindi la massoneria al tempo della Rivoluzione scompare. Ai tempi di Robespierre la massoneria non esiste più, non viene tollerata, anche perché hanno paura che dietro le logge ci si possa fare dei complotti. Quando dopo Robespierre viene Napoleone Bonaparte, quando viene su Napoleone Bonaparte, lui ha il dilemma, cosa fare? Continuare a proibire la massoneria come fanno i governi autoritari? Perché evitare che serva da coagulo dell'opposizione, oppure accettarla e mettersene a capo. Napoleone, uomo intelligentissimo, sceglie questa seconda tesi, permette la massoneria, però mette a capo di questa massoneria il fratello Giuseppe, mette a capo persone fidatissime come Cambaceres, il gran cancelliere, ed altre cose di questo, in modo da poterla controllare. Non gli riesce perché lui vorrebbe avere, secondo il concetto napoleonico, un'unica massoneria che poi culmina in un organismo che viene chiamato Grande Oriente, e poi il Gran Maestro del Grande Oriente è una persona di sua fiducia, è un suo parente. Questo non gli riesce. Le massonerie prima della Rivoluzione Francese era divisa in vari gruppi e comprendeva persone diversissime e vari sistemi. Ogni sistema serviva anche per truffare, per spillare soldi ai creduloni, e questo rimane anche ai tempi di Napoleone. Accanto al Grande Oriente rinasce la massoneria cosiddetta scozzese, la massoneria degli alti gradi. Ora, cosa c'è? I massoni su questo non si interessano di questo problema. Che differenza c'è fra queste due obbedienze, il Grande Oriente da una parte e la massoneria scozzese dall'altra? Io sono fermamente convinto che la massoneria scozzese raccoglie l'opposizione a Napoleone. Infatti sono vecchi aristocratici che non accettano il dominio della borghesia del Terzo Stato, che è alle spalle del Bonaparte. Sono vecchi aristocratici a cui poi si aggiungono ex giacobini che entrano nelle logge. In Italia, cioè nel Regno Italico, nella Repubblica Italiana prima, Regno Italico poi, nel Regno Italico non nasce il Grande Oriente, ma nasce la massoneria di ordine scozzese, di carattere scozzese, e lì si formano dei nuclei di opposizione. Nella massoneria scozzese effettivamente c'è questa opposizione a Napoleone. Noi abbiamo una testimonianza in questo proposito. C'è la testimonianza di un trentino proprio, Giovacchino Prati, il quale dice: io fui iniziato in una loggia milanese, ed era precisamente la loggia più prestigiosa perché era capeggiata da Domenico Romagnosi, da Franco Salfi, grandi personalità. Fui iniziato poi, dopo che io feci un discorso in cui dimostrò il suo spirito rivoluzionario. Prati era tutto pur di combattere lo Stato costituito. Quando mi sentirono fare questo discorso, mi chiamarono in disparte e fui iniziato in un cerchio interno della massoneria. Lui ha scritto le sue memorie sul Penny Satirist e dice: è masonry inti masonry, una massoneria dentro la massoneria stessa. E lì allora si forma, si crea questa opposizione a Napoleone. La massoneria durerà fino al 1813, quando poi l'opposizione scoppierà molto all'aperto. Questo avviene proprio, quindi si rafforza questo spirito di opposizione via via che Napoleone deve affrontare la crisi della guerra spagnola, deve affrontare la crisi della campagna di Russia, si sente indebolito, eccetera, allora si rafforza nelle logge proprie questa sua opposizione. Quindi vecchia aristocrazia affiancata da vecchi giacobini, appunto tipo come come l'amico Prati. Oh, perché i Giacobini, di cui ci ha parlato ieri il nostro presidente Corsini, perché i Giacobini? I Giacobini ebbero sempre un atteggiamento favorevole verso la Francia rivoluzionaria. I Giacobini erano la quinta colonna, i Giacobini italiani. Loro si chiamavano non Giacobini italiani, dicevano noi siamo patrioti, ma era la quinta colonna che favoriva l'avanzata dell'armata francese. Ed era giusto, perché, come diceva Bonarroti, la mia patria non è il Granducato di Toscana, la mia patria è la Francia, dove nasce un nuovo mondo, dove nasce una nuova idea. E i Giacobini aiutano l'avanzata francese. Quando i francesi arrivano in Italia, si accorgono, i nostri Giacobini, si accorgono che non sono quelli che essi speravano che fossero. Cioè che i Giacobini, che la Francia del direttorio, ormai il giacobinismo in Francia non esiste più, esiste nell'armata, esiste in singole persone, ma non esiste più come forma organizzata. La Francia del direttorio fa la politica nazionale, non fa la politica a favore della rivoluzione in Europa, ma vuole i confini naturali, Pirenei, Alpi, Atlantico, Reno. E l'Italia, la conquista dell'Italia, serve come merce di scambio. Noi all'Austria gli diamo il Veneto, noi all'Austria gli daremo la Lombardia, l'Emilia, eccetera, e l'Austria ci cederà Magonza, ci cederà Treviri e le altre. Questa era. E allora qui i Giacobini italiani sentono di essere stati traditi. E Bonarroti, che viene mandato come commissario a Oneglia, e a Oneglia lui raggruppa intorno a sé, lui toscano, piemontesi e napoletani. E dice chiaro e tondo: per mantenere l'indipendenza d'Italia bisogna unirsi fra di noi, combattere i francesi, non i francesi di Robespierre, ma i francesi del direttorio di Barras e anche del generale Bonaparte. Accetta questa dominazione napoleonica, che tutto sommato non dà l'unità all'Italia, però da questo stato di questa penisola divisa in 13 stati e staterelli rimangono tre grandi unità statali, una direttamente annessa alla Francia, il Regno di Napoli e il Regno d'Italia, sia pure con sovrani francesi. Il viceré del Regno d'Italia è Eugenio Beauharnais e il re di Napoli è prima Giuseppe e poi diventerà Murat, il generale Murat, il generale della sua cavalleria. Dunque, questa è la situazione. La massoneria, in questo periodo qui, allora, alimenta l'opposizione a Napoleone. Nell'Italia del Sud, nell'Italia meridionale, ecco c'è al punto, la massoneria non è così, non si forma dentro la massoneria, ma l'opposizione si forma fuori, è una dissidenza della massoneria, ed è questa la carboneria. La carboneria nasce come prima cosa opposizione al regime francese, ma non attraverso la loggia, ma attraverso un organismo proprio, che è appunto la carboneria, che dalla massoneria accoglie certe tecniche organizzative. Noi abbiamo sentito gli Illuminati. Gli Illuminati avevano proprio questo gradualismo di cui ci ha parlato anche Weiss, cioè un gradualismo: al primo grado si legge questo e si dà questo insegnamento, al secondo quest'altro e al terzo infine il comunismo, l'anarchia, comunione dei beni ed altre cose di questo genere. Beh, la carboneria accetta questa tecnica della massoneria, fa propria questa tecnica. Come è nata? È nata per istigazione.